Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica, come sapete, con le riviste, i mensili, i settimanali italiani, stranieri, dove andiamo un po' a curiosare Anita Panizza ed io questa mattina con la collaborazione in regia di Filippo Aureggi per segnalarvi qualche proposta interessante di lettura. Ad esempio, c'è una tendenza nuova che apprendo da L'Espresso, ma in realtà abbiamo visto anche su qualche altra rivista, una tendenza nuova che riguarda, manco a dirlo, internet di nuovo. Perché cosa sta succedendo? Sta cominciando il fenomeno dello shopping sociale. Che cos'è lo shopping sociale? Praticamente è utilizzare internet e i social network, oramai li conosciamo un po' tutti, Facebook e compagni, per fare degli acquisti scontati. Praticamente è una sorta di aggiornamento digitale del vecchio sistema dei buoni sconto. Chiaramente, non dovendo passare dall'aspetto fisico del buono sconto, dalla consegna del buono sconto, ma bastando una mail o bastando una segnalazione appunto su un social network, diventa tutto molto più rapido e molto più facile. Vi spiego meglio prendendo dall'articolo di Carola Frediani che trovate sull'Espresso di questa settimana. L'articolo è intitolato "Il web fa lo sconto" e il sommario recita: dopo il boom di Groupon nascono decine di siti per fare acquisti pagando la metà. Milioni di italiani si buttano sull'e-commerce. Spiega la Frediani: c'è chi aspetta il trillo del cellulare la sera tardi quando arriva l'email con le offerte per correre a vedere quale sarà l'affare del giorno dopo. Chi al mattino per prima cosa guarda la sua pagina di Facebook per scoprire se e quante persone si sono unite al suo gruppo d'acquisto virtuale che gli permetterà di fare compere spendendo la metà. Sono gli avamposti, continua Frediani, di un esercito di consumatori euforici che hanno scoperto i siti che offrono prodotti e servizi a prezzi scontati attraverso un sistema di coupon e di ordini collettivi. È la rinascita, come vi dicevo, del vecchio buono sconto, il buono sconto ai tempi del social web. I primi certificati che regalavano al cliente un bicchiere di tonica risalgono agli Stati Uniti dell'Ottocento. Da allora si è sviluppato un fiorente mercato di voucher cartacei che però al volgere del 2000 ha iniziato a declinare brutalmente, finché non sono intervenuti due fattori: la recessione globale e la nascita di siti web specializzati in sconti di gruppo. Aggiungeteci il passaparola dei media sociali ed ecco la tempesta perfetta per incentivare i consumi. Vediamo meglio questo meccanismo, allora, che, come vi dicevo, sta avendo una certa popolarità sulle riviste, anche su Grazia, ad esempio, alcune rubriche sono dedicate a questo, grazie su Grazia di questa settimana. E come prosegue poi l'articolo dell'Espresso, si spiega che la piattaforma di coupon si accorda con una serie di esercizi commerciali e promuove le loro offerte divise per città ai vari utenti attraverso il sito, attraverso una newsletter, naturalmente sempre digitale. Può trattarsi di una cena per due che costa la metà, di una seduta di lampada scontata del 60%, lezioni di inglese a prezzo stracciato. Ma la proposta per attivarsi deve essere sottoscritta entro un limite di tempo, che in genere è di 24 ore, da un certo numero di persone, le quali ovviamente, e questo è il vantaggio poi del web, non devono necessariamente conoscersi, non devono, possiamo aggiungere, neanche vivere in una prossimità geografica troppo ristretta, come magari poteva costringere il bene cartaceo, ma basta che facciano una massa critica sufficiente per raggiungere il quorum e far partire l'offerta. Ecco allora che si inseriscono i social network. Se mi interessa un corso di tango, un lancio di bungee jumping, perché non diffondere l'idea tra gli amici di Facebook, tra gli amici di Twitter e così via? Oltre ad avere compagnia, crescerò le probabilità che l'offerta venga attivata. E infatti la condivisione con la propria rete di conoscenti online è fortemente incoraggiata da questi siti. Quindi per ogni amico portato che ha fatto un acquisto si riceve poi un premio in denaro che poi può essere speso sul sito. È insomma una nuova esperienza di shopping. Il più noto è appunto questo Groupon.it, ma ormai, spiega sempre l'Espresso, i siti del genere si stanno moltiplicando. C'è Groupalia, KJBDeals.it, KGBDeals.it, Glamo.it e altri ancora. Sono tutti sistemi su tutti i siti dove si possono appunto trovare queste offerte. Trovate anche un piccolo elenco sempre sull'Espresso di questa settimana. Una curiosità per chiudere con questa segnalazione, ci sono le offerte curiose anche che vengono proposte dai siti di social commerce. Ad esempio segnalano un disegno di un gatto che viene offerto a $3, ci sono lezioni di lap dance a partire dai $45, un'ora di trattamento di aria salata a $18, poi un biglietto per il Museo del Sesso a New York a $9, lezioni di Latin Street Dancing a $35 e così via. E poi anche offerte, diciamo, più consuete, che so, shampoo, piega, impacco, formula lucentezza per i capelli, il tutto a €9 e così via. E poi la cena per due di cucina ebraica, la cena per due in barca con menu di pesce a €40 e via ancora. Queste sono alcune delle offerte che vengono lanciate e appunto condivise dai siti di social shopping, cioè shopping sociale, shopping agevolato dal web e dai social network. E allora, a proposito di social network, Facebook, vi dicevo, e altri ancora, vi ricordo che ogni giovedì stiamo presentando con il Sole 24 Ore una piccola collana di volumi che sono proprio dedicati al business, agli affari, alle possibilità economiche dei social network. Il volume che trovate da giovedì scorso in edicola è dedicato proprio ai motori di ricerca e al marketing con i motori di ricerca. La titolazione è in inglese, come purtroppo impone la consuetudine del digitale, Search Engine Marketing. Questo è il volume completo, è la proposta del Sole 24 Ore di questa settimana per la collana Fare Business con i Social Network. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di quote rosa, perché si è parlato molto di quote rosa nella settimana. Come sapete, c'è stato un primo passaggio della proposta che intende introdurre una sorta di obbligatorietà della presenza delle donne nei vertici della società, quindi parliamo dei consigli di amministrazione ma anche dei collegi sindacali. Naturalmente è uno di quei temi che ha il potere di dividere, nel senso che anche tra le stesse donne si trovano voci differenti, le une che dicono serve questa proposta, è assolutamente necessaria, altrimenti le donne saranno sempre sottorappresentate ai vertici, e le altre che dicono non è questo il modo per veder riconosciuto il merito delle donne. Sul tema torna la Donna Moderna con un articolo di Antonella Trentin, e già il titolo riassume quello che cercavo di dirvi: quote rosa sì, ma però o forse no. Perché tutto questo? Perché appunto si fa un resoconto in questo articolo del dibattito che ha accompagnato finora questa proposta. Sappiamo che in altri paesi queste quote esistono, in altri stanno discutendo se introdurle e con quale gradualità, con quali vincoli. Naturalmente anche da noi ha suscitato un grosso dibattito. È importante notare, e lo segnala la stessa Trentin, non ci sarebbe una sorta di ostilità maschile contro questa legge, cioè una sorta di pregiudizio degli uomini che non vogliono queste quote rosa. Chiede infatti a una delle intervistate, che è poi Carla Fendi, una delle fondatrici dell'omonima Maison: c'è del maschilismo nell'ostilità che si trova in questa proposta di legge? Dice Carla Fendi: no, non credo, perché gli uomini sono assolutamente maturi per condividere ruoli importanti con le donne. Io credo piuttosto che ci sia un'errata considerazione sulla possibilità di raggiungere posizioni di prestigio da parte di un elevato numero di donne. Questo è sbagliato, perché conosco il mondo del lavoro, so quanto siano preparate e impegnate, e a volte più degli uomini. Poi ci sono anche coloro che hanno deciso di protestare per l'ostilità invece che c'è stata contro la proposta, e questo ha portato un po' di sussulti e anche molte proteste che sono confluite, come riferisce la stessa Trentin, in mail, in fax che sono stati inviati alle due relatrici che hanno preparato questa proposta e che la stanno discutendo. Si è parlato appunto di un'onda rosa. Peraltro osserva Lella Golfo, che è una delle promotrici di questa legge, dobbiamo sempre capire che dal 2001 al 2011 la presenza delle donne nei consigli di amministrazione è aumentata soltanto del 2%. Quindi questo di questo passo, dice lei, per arrivare al 30% come in molti paesi europei ci vorrebbero 40 anni. Questo per dimostrare la necessità di intervenire per legge. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato di quote rosa. Restiamo, come dire, in argomento, ma per esaminare invece grandi eventi della politica estera visti proprio con un'ottica al femminile. Su Newsweek di questa settimana c'è un lungo e peraltro bellissimo articolo di Elizabeth Rubin che si occupa proprio delle femministe nel mezzo di Tahrir, della piazza Tahrir. Piazza Tahrir è, per chi non lo sapesse, la piazza simbolo della rivoluzione egiziana, è il cuore appunto di questo cambiamento, è diventata il punto centrale della rivolta nei paesi arabi. Ma qual è il ruolo delle donne del movimento femminile, più che femminista, in questo scossone, in questo enorme sussulto che sta scuotendo il Nord Africa e i paesi arabi? È molto interessante scoprirlo. Questo articolo di Elizabeth Rubin aiuta a prendere un po' confidenza con la questione. Spiega ad esempio, al culmine della protesta nella piazza del Cairo, piazza Tahrir, ho visto la folla dividersi in due, attraversata da un torrente di ragazze e giovani donne vestite in rosa e in veli blu e rosa. Gli uomini formavano come uno scudo attorno a loro, così che queste potessero muoversi attraverso la piazza senza essere impedite nel loro cammino. Quando un uomo ha provato ad aggiungersi a questa sorta di corteo, è stato respinto, gli hanno detto no, questa è la rivoluzione delle donne. Ma subito una delle donne che invece faceva parte dello stesso corteo ha detto no, siamo qui come donne, certo, ma noi stiamo parlando per tutti. Ecco, questo forse riassume, questo attacco dell'articolo della Rubin riassume un po' tutto, perché poi lei passa a un lungo resoconto storico proprio della presenza femminile, del ruolo di alcune scrittrici, di alcune intellettuali che in Egitto hanno pian piano costruito nei decenni una sorta di coscienza al femminile, anche in qualche modo pagando di persona. Ad esempio, una delle figure carismatiche della rivolta egiziana, ma che sta diventando un po' una figura carismatica di tutta la rivolta araba, è la scrittrice femminista egiziana che si chiama Nawal El Saadawi. È andata lei ormai ottantenne in piazza Tahrir a festeggiare appunto il suo 80° compleanno. È un'autrice molto famosa perché è stata anche imprigionata dal regime di Sadat proprio per i suoi libri, che hanno avuto il coraggio di cominciare a parlare della condizione femminile in Egitto e più in generale anche nel mondo arabo. Questa è una anche delle figure citate da Elizabeth Rubin, che però parte ancora da più lontano. Dice, in realtà la storia per capire le donne che oggi si trovano in piazza Tahrir dobbiamo partire da Hoda Sharawi, io chiedo scusa naturalmente, la mia pronuncia sarà sicuramente scorretta, che era stata una protofemminista in qualche modo, perché addirittura nella rivolta contro la Gran Bretagna negli anni 10, negli anni 20 fece anche un gesto particolarmente di rottura, si tolse il velo in pubblico. Questo era, spiega la Rubin, un gesto simbolico di ribellione che naturalmente non fu affatto apprezzato dall'establishment religioso e probabilmente era troppo scioccante per essere adottato universalmente come gesto di ribellione. Ma la Sharawi comunque ha ispirato tutta una generazione che passo dopo passo hanno cominciato a combattere per i diritti personali e politici delle donne, i diritti individuali e politici delle donne, tra cui ad esempio l'abolizione della poligamia o il diritto di divorziare. Sharawi è morta poi nel 47 e il testimone è stato raccolto, riferisce appunto Elizabeth Rubin su Newsweek, da questa giovane ragazza che si chiama Nawal El Saadawi. Era una ragazza nata in un villaggio a nord del Cairo, scusate perché è una scrittrice tuttora vivente, abbiamo visto che appunto è stata in piazza Tahrir, che voleva, nonostante avesse un padre diciamo progressista, avremmo detto oggi, sarebbe dovuta andare sposa a uno sposo già scelto dai genitori all'età di 10 anni. Naturalmente lei si è ribellata a questa prospettiva, ha preteso di studiare, è stata volontaria come dottore, come medico nella guerra del 67 con Israele, si è occupata dei campi palestinesi e ha rotto, riferisce sempre la Rubin, nel 72 anche più tabù di quanto avesse fatto Hoda Sharawi togliendosi il velo molti anni prima, scrivendo un libro che si chiamava significativamente Donne e Sesso, e con questo volume è riuscita in qualche modo a irritare così tanto le autorità da perdere il suo incarico al Ministero della Salute e ad entrare in una sorta di tunnel di persecuzioni, anche appunto di prigionia, da cui è uscita poi solo in tempi più recenti. È interessante, viene poi intervistata dalla Rubin, una cosa che dice appunto Nawal el-Sadawi, perché dice: il velo e la nudità, in qualche modo questo accomuna il mondo arabo ma anche il nostro, sono alla fine due facce della stessa medaglia. Le donne sono un oggetto sessuale nel libero mercato e io sono contro, ad esempio, il make-up nel senso più eccessivo. La stessa plastica, la chirurgia plastica, è una sorta di velo postmoderno, dice guardandomi e sorridendomi, sorridendo e ridendo anche un po' in silenzio. Quindi coglie una sorta di sottomissione della donna, sia che si tratti di coprirne l'aspetto con il velo, sia che si tratti invece di scoprirne o di modificarne l'aspetto. Questo è il parallelo colto da Nawal el-Sadawi nell'articolo di Newsweek di questa settimana. Ma della rivoluzione egiziana si occupa anche una rivista che abbiamo trovato un po' curiosando. La rivista è Popoli, è il mensile internazionale dei gesuiti, è una rivista che trovate forse più facilmente su internet che non in libreria. Il sito internet di riferimento è www.popoli.info e è appunto una rivista dedicata soprattutto alle questioni di politica estera. Ospita questo mese un articolo di un giornalista egiziano che si chiama Ibrahim Refat, che racconta, spiega la rivoluzione che sta attraversando l'Egitto con una sintesi, devo dire, sublime, perché in sole 3 pagine riesce a ridarci un po' anche i motivi di questa protesta. Ad esempio, già nel suo incipit ci spiega: la corruzione diffusa, il clientelismo sfacciato, la brutalità sistematica della polizia a danno della popolazione civile sono le vere cause delle manifestazioni che hanno costretto il presidente Hosni Mubarak a lasciare il potere. Il regime, che ha sempre saputo far convivere brutalità e corruzione, ha finito per alienarsi la simpatia delle masse, soprattutto negli ultimi anni, quando, complice la crisi economica internazionale, non è più stato in grado di rispondere alle esigenze basilari della popolazione. Una popolazione, prosegue il resoconto di Ibrahim Refat, che doveva fare i conti con una povertà in crescita e con una disoccupazione massiccia. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'inflazione oggi in Egitto è al 20%, i senza lavoro sono il 28% della popolazione attiva e si pensa che questo dato sia sottostimato. Questo è il resoconto che trovate su Popoli, il mensile dei gesuiti. Ripeto, forse è più facile trovarlo su internet, www.popoli.info. E con questa segnalazione dedicata alla rivoluzione egiziana si conclude la puntata di oggi di Magazine 24. Grazie ancora a Filippo Auregi questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Magazine 24 ritorna domani mattina.